23 maggio, Spartaco. Sabato. Stiamo festeggiando 20 anni di Apostasia, quindi 20 anni di rock and roll. Grazie e soprattutto con il sostegno di Radio Onda Rossa. Rancore! Sì! Capitan Surfare and the Washburn! Yeah! Gioventù bruciata! Della macchina nel nome del Signore, mai troppa roba di essere parte servitore, in questa fase assurda, unità culturale irrimediabile. Sabato 23 maggio, centro sociale occupato autogestito Spartaco, perché Apostasia fa 20 anni. Quindi venite tutti e tutti, Spartaco, 23 maggio, sabato.